Partiamo da un presupposto. Il nostro studio nasce da un'osservazione clinica molto banale: l'aumento dell'afflusso di pazienti che, dopo aver contratto una malattia sintomatica da Covid-19, presentavano delle manifestazioni dolorose muscoloscheletriche che clinicamente noi inquadravamo come sindrome fibromialgica. Ora, innanzitutto bisogna chiarire che cos'è questa condizione. È una condizione di frequentissimo riscontro nella popolazione generale, una patologia caratterizzata da un dolore muscoloscheletrico generalizzato, quindi diffuso un po' a tutti i muscoli e le articolazioni, che fondamentalmente si accompagna a un amplissimo corteo di sintomi che vanno a coinvolgere un po' tutti gli organi e apparati, l'apparato respiratorio, l'apparato cardiocircolatorio, la sfera cognitiva, i disturbi del sonno e via dicendo. Ed è una patologia di cui fondamentalmente si occupa lo specialista reumatologo. Ora, da questa osservazione clinica abbiamo pensato di trasformare questa osservazione empirica in uno studio vero e proprio, per cui l'approccio più semplice, il modo più utile per individuare un grosso numero di pazienti che avevano contratto in passato l'infezione da Covid-19 è stata quella di utilizzare ormai il potentissimo strumento delle survey, per cui abbiamo sviluppato una piattaforma di survey online dove, attraverso vari canali che vanno dal contatto diretto con i pazienti dei clinici che hanno contribuito a questo studio al reclutamento attraverso i social, abbiamo sottoposto questi soggetti, quindi persone che avevano già avuto una malattia da Covid-19, a una serie di questionari che ci consentivano, di questionari validati, che ci consentivano di verificare la presenza o meno di un quadro sindromico compatibile con questa malattia. Alla fine abbiamo reclutato oltre 600 pazienti, quindi 616 pazienti, che fondamentalmente rispecchiavano i requisiti per entrare in questo studio, e sorprendentemente abbiamo dimostrato attraverso questo questionario che oltre il 30%, circa il 31% di questi pazienti rientrava nei criteri classificativi per la diagnosi di sindrome fibromialgica. Un numero assolutamente impressionante, se ci pensiamo, significa che uno su tre delle persone che hanno avuto questa malattia, hanno avuto il Covid-19, presentano a distanza di tempo, parliamo di una media di 6 mesi, quindi non nei giorni immediatamente successivi alla guarigione, dove ci si aspetta che una persona sia in qualche modo segnata da un'infezione acuta. A distanza di ben 6 mesi questi pazienti avevano questa sintomatologia. Sì. Scusi se la interrompo un momento, però volevo chiarire per chi non sa cos'è un survey: è un questionario che voi avete redatto secondo determinati criteri scientifici e certo, che avete quindi diffuso tramite diversi canali, tra cui anche i social, ma non solo. Quindi le volevo fare innanzitutto 3 domande. Se può ripetere quali sono stati i canali in cui avete diffuso questo questionario, se può accennare a qualche domanda, per fare qualche esempio, che era stata inserita all'interno del questionario, e poi come terza cosa, visto che penso che possa interessare molto le persone, è che gravità di Covid-19 avevano queste persone che poi hanno sviluppato una sintomatologia riferibile alla fibromialgia. Allora, per quanto riguarda, diciamo, la tipologia di domande somministrate, partiamo dal presupposto che, oltre a una serie di domande che vanno a valutare le caratteristiche antropometriche, quindi il peso, l'altezza, i caratteri demografici di queste persone, ci siamo avvalsi di dei questionari validati, cioè non sono delle formule che vengono inventate sul momento, ma degli strumenti validati dalla comunità scientifica, dei quali viene poi tratto un punteggio che ci consente di stratificare i pazienti come affetti o meno da una condizione. Ora, è chiaro che le domande incluse in questi questionari riguardano principalmente la sfera del dolore, perché è il sintomo cardinale di questa malattia, quindi la presenza o meno di dolore, le sedi in cui è presente questo dolore, perché ovviamente bisogna dimostrare che il dolore è generalizzato, quindi se mi fa male un braccio e basta, io non posso avere questa malattia, quindi devo dimostrare che il dolore è diffuso a vari segmenti dell'apparato muscoloscheletrico e poi la presenza di alcuni sintomi di accompagnamento come i disturbi del sonno o tanti altri che chiaramente contribuiscono poi a generare questo punteggio che noi utilizziamo per la classificazione del paziente. L'altra era una che penso che possa interessare un po' a tutti, soprattutto chi ha avuto il Covid, è la severità dei sintomi del Covid che possono portare. Esatto. Allora, la cosa molto interessante secondo me di questo studio è che fondamentalmente, la prendo un po' larga però per rispondere a questa domanda, è che fondamentalmente viene fuori un dato molto strano, se vogliamo. Questa malattia in genere è considerata una malattia con una forte predominanza nel sesso femminile, cioè generalmente questa malattia colpisce prevalentemente le donne. Ora, nella nostra casistica abbiamo trovato una percentuale sorprendentemente alta di pazienti uomini affetti da questa malattia. Quando siamo andati analizzando i dati a cercare di capire per quale motivo ci troviamo di fronte a questa differenza, a questo gap con il grosso della letteratura, abbiamo delineato il fatto che in realtà i pazienti che soddisfacevano i criteri per questa malattia avevano probabilmente una malattia più severa. Ad esempio parliamo di pazienti che erano più frequentemente ricoverati, quindi rispetto al trattamento a casa, cioè se un paziente sta a casa chiaramente vuol dire che dal suo medico curante viene considerato di bassa gravità, oppure pazienti che avevano necessitato più frequentemente di essere trattati con ossigeno o con altre metodiche che ci danno una misura del fatto che la malattia era grave da un punto di vista respiratorio. Un altro carattere che determinava il rischio di essere affetti da questa fibromialgia post-Covid era fondamentalmente la presenza di obesità. Ora, chiudendo il cerchio, siamo giunti a una conclusione, diciamo una conclusione finale, che sostanzialmente il sesso maschile viene colpito molto di frequente perché il sesso maschile è quello che più di frequente sviluppa delle forme severe di malattia, di Covid-19, quindi è più soggetto ad avere delle comorbidità, ad esempio l'ipertensione, più soggetto ad essere obeso. Quindi il cerchio si chiude dicendo che il maschio si ammala frequentemente di fibrocovid, di questa sindrome post-Covid, semplicemente perché sviluppa più frequentemente una malattia severa.